giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Tragedia del Natisone, 3 minuti, questo secondo le indagini il ritardo che ha segnato il destino dei 3 ragazzi travolti dalla piena. Un falso assegno da oltre 30.000 euro per una vettura elettrica di alta gamma, la finanza sventa, la truffa ai danni di un pordenonese. Cresce il consumo di suolo in regione, lo certifica l'ISPRA, cementificato oltre l'8% del territorio, peggio della media nazionale. Giornata per la disabilità, alla regione 21 milioni di euro dalle sanzioni alle aziende che non assumono le quote di personale disabile. Bollette dell'energia, Trieste, un protocollo tra Istea Energy e Federconsumatori per risolvere i problemi degli utenti più velocemente. In Friuli Venezia Giulia il primato nazionale per il numero di pioppetti certificati secondo gli schemi della sostenibilità, le coltivazioni in aumento anche grazie ai contributi europei, il punto in un convegno. 12:31, buongiorno dalla Razzani e Rita Micoli. Apriamo anche questa edizione del giornale radio con le indagini su quanto avvenuto lo scorso 31 maggio sul Natisone, con il fiume in piena che a Premariaco ha trascinato via per sempre i 3 giovani amici, Patrizia Cormos, Bianca Doros e Christian Molnar. In questo servizio le novità sulla ricostruzione dei tempi del soccorso ai ragazzi e le parole della madre di Patrizia, studentessa dell'Accademia di Belle Arti di Udine. Tiene in mano il telefono di Patrizia, ancora funzionante, mamma Micaela. Da quel cellulare è partita la prima richiesta di soccorso dal greto del Natisone. Dalle foto la ricostruzione di quel 31 maggio a Premariaco. L'arrivo alle 13:18, non si vede acqua, è tutto asciutto. Così come alle 13:22. Il fiume, si intuisce dalle fotografie, sale in una manciata di minuti. Quell'abbraccio, la giacca di Patrizia stretta intorno alla vita di Bianca. Maria Micaela Tritean. Per tenerla, perché si vede in un video che proprio gli mette la mano dietro, perché lei era così, era veramente una brava ragazza. Bianca, visto che l'ha visto paurosa, forse voleva rassicurarla. Proprio sul filo dei minuti si gioca l'inchiesta della procura di Udine. L'elicottero sanitario che arriva alle 14:13, ma i ragazzi erano già stati trascinati via da 3 minuti. Per 15 minuti dal comando dei vigili del fuoco di Udine non viene richiesto l'intervento dell'elicottero dell'emergenza sanitaria. Prima viene inviata una squadra da Cividale, poi l'autoscala da Udine, poi attivato l'elicottero dei vigili del fuoco da Venezia. Un quarto d'ora dopo la prima chiamata di Patrizia, la richiesta alla Sores di fare intervenire il loro elicottero. Al setaccio degli inquirenti anche le consultazioni interne in sala operativa Sores, per capire se siano stati persi minuti preziosi anche in quel passaggio. Troppo tardivo il decollo dell'elisoccorso da Campo Formido alle 14:07. Da casa Cormos quel giorno si udì distintamente. Sono 4 gli indagati al momento, il capoturno e 2 operatori in servizio dei vigili del fuoco e un operatore Sores. Secondo me sono pochi, solo 4 persone, secondo me bisogna approfondire di più, però come abbiamo sempre detto con il mio avvocato abbiamo fiducia nella procura. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Nel fascicolo della procura di Udine sono iscritti nel registro degli indagati con l'ipotesi di omicidio colposo 3 vigili del fuoco e un infermiere della Sores, i primi a raccogliere le chiamate di aiuto che arrivavano dal greto del Natisone. C'è il rischio che anche il ruolo di infermiere operatore telefonico spaventi i possibili candidati a un posto che sembrava sinora essere più al riparo dal pericolo di denunce rispetto ad altre professioni sanitarie? Sentiamo cosa ne pensa Luciano Clarizia, presidente del coordinamento regionale delle professioni infermieristiche del Friuli Venezia Giulia, secondo cui... Ma dispiaciuto dall'evento, insomma, dal fatto che questi 3 pompieri, vigili del fuoco e un sanitario, un infermiere sono stati indagati dopo i fatti nel Natisone, dispiaciuto perché sono 4 operatori che hanno seguito correttamente, lo possiamo dire senza nessun problema, tutte le indicazioni, quindi protocolli, procedure, e beh, che abbiano fatto correttamente il loro lavoro, si trovano indagati. Dispiace ancora più per il mio collega infermiere, perché in realtà, ripeto, questo era un soccorso, l'abbiamo visto, lo si sa, tecnico, quindi dove la sanità ci trova ben poco in realtà, e quindi non solo si trova indagato e quindi con tutte le complicazioni che possiamo immaginare che poi una persona può avere sulle spalle, trovarsi indagato anche senza aver fatto nulla, dovrà provvedere. Il dramma qual è? Che avremo ancora gli infermieri che si allontaneranno dalla professione dell'emergenza, perché se poi devi anche pagare i danni su cose che non hai fatto, commesso errori, capite che effettivamente questo è quello che pagheremo per la conseguenza di questa scelta. Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. Caso Regeni è in corso al Tribunale di Roma una nuova udienza a carico dei 4007 egiziani considerati responsabili del reato di sequestro di persona pluriaggravato del ricercatore di Fiumicello trovato senza vita il 3 febbraio 2016 lungo la strada che dal Cairo porta ad Alessandria. Oggi in aula un testimone sotto copertura, un cittadino egiziano che ha raccontato di aver visto Giulio Regeni nella stazione di polizia del Cairo mentre chiedeva di poter parlare con un avvocato o con le strutture diplomatiche italiane. Con lui quattro agenti egiziani, di due il testimone avrebbe sentito anche fare il nome corrispondente in apparenza a quello di altrettanti dei quattro agenti sotto inchiesta. I finanzieri del comando provinciale di Pordenone hanno sventato una truffa ai danni di un pordenonese recuperando l'autovettura di pregio appena venduta a un truffatore seriale che l'aveva pagata con un falso assegno circolare. L'indagine scaturisce dalla denuncia presentata da un friulano che sul noto sito di annunci aveva posto in vendita la sua autovettura elettrica, ricevendo una manifestazione di interesse da parte di un italiano che si era reso disponibile a venire subito a Pordenone per perfezionare l'acquisto al prezzo di 32.000 euro. Formalizzato il passaggio di proprietà, il compratore aveva pagato con un assegno circolare. Il giorno successivo, però, il venditore aveva provato a incassarlo scoprendone la falsità. Non appena ricevuta la querela, le Fiamme Gialle pordenonesi hanno appurato che il compratore era persona nota per aver commesso in giro per il paese truffe di vario tipo. Hanno richiesto all'ACI Informatica e al PRA di sospendere e annullare il trasferimento di proprietà e provveduto a ricostruire il percorso seguito dal mezzo, sfruttando la presenza a bordo di un sistema GPS. I finanzieri hanno scoperto che la Mercedes stava viaggiando in direzione della Francia e che si trovava in un parcheggio di Chivasso, in provincia di Torino. L'attivazione dei colleghi piemontesi ha permesso di individuare e cautelare il mezzo, poi riconsegnato al venditore. Il truffatore seriale è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Pordenone. L'ultimo rapporto ISPRA sul consumo di suolo, presentato oggi a Roma, fotografa una situazione in regione ancora ben lontana dall'obiettivo zero consumo fissato per l'Italia al 2030. Seppure tra qualche realtà più virtuosa, l'avanzata del cemento resta elevata. 164 ettari in più di suolo occupato in regione in soli 12 mesi, lo evidenzia l'ultima mappa nazionale sul consumo di suolo visto dal satellite elaborata dall'ISPRA e aggiornata al 2023. Sale così a oltre l'8% la quota di territorio regionale cementificato, superiore alla media nazionale ferma al 7,16%, un record poco invidiabile per una delle regioni più piccole d'Italia per estensione, tra le ex province Maglianera Udine con 109 ettari di nuovo suolo consumato, segue Pordenone a 45 ettari e più indietro le più virtuose Gorizia e Trieste, entrambe sotto i 10 ettari. Spicca poi il dato del suolo consumato pro capite, a livello regionale 533 metri quadrati per abitante contro la media nazionale di 366, un dato comune alle regioni a scarsa densità di popolazione che vede il Friuli Venezia Giulia dietro a Molise, Basilicata e Valle d'Aosta. Guardando ai singoli comuni in termini percentuali, il consumo di suolo risulta maggiore tra quelli più urbanizzati della pianura e fascia costiera. Registrano i valori più alti, oltre il 40% di suolo occupato ad oggi, Monfalcone, Udine e Pordenone, sopra il 30% Tavagnacco, Lignano Sabbiadoro, Muggia e Trieste, sebbene il capoluogo regionale si distingua nella classifica dei grandi comuni italiani che hanno consumato meno suolo nell'ultimo periodo. Premariaco è invece il comune della regione che segna la crescita più elevata, con 27 nuovi ettari di suolo consumato, ma va considerato che a far salire da 9,88 ad oltre il 10% la quota di territorio occupato e soprattutto un grosso impianto fotovoltaico ritenuto meno impattante rispetto a strade ed edifici. Codroipo è il secondo comune con la crescita maggiore, 15 ettari, terzo Pavia di Udine a più 9 ettari, un quadro ancora lontano dagli obiettivi europei che chiedono di azzerare entro il 2050 il consumo di suolo netto e prima ancora da quelli dell'Italia che ha anticipato il termine al 2030. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Oggi si celebra la Giornata internazionale delle persone con disabilità, indetta dall'ONU 43 anni fa. Il tema quest'anno è essere davvero protagonisti della propria vita. E allora facciamo il punto sul grado di partecipazione alla vita lavorativa nelle aziende pubbliche e private del Friuli Venezia Giulia. Nel servizio sentiamo Maurizio Pessato, il vicepresidente della Consulta Disabili del Friuli Venezia Giulia. Il diritto al lavoro include anche le persone con disabilità fisiche o mentali, lo stabilisce con chiarezza da ormai 25 anni la legge 68, fortemente voluta dall'allora ministra Livia Turco, per integrare le persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. Di fatto però solo una minoranza di aziende è in regola, tante preferiscono non assumere i disabili e pagare le sanzioni previste dalla legge. Il risultato è un tesoretto di 21 milioni di euro in mano alla regione Friuli Venezia Giulia, soldi che per legge ora dovranno essere reimpiegati a favore dell'inserimento lavorativo dei disabili. Come spenderli dunque? Proprio recentemente, adesso sta uscendo un nuovo regolamento di aggiornamento per quanto riguarda il fondo di rotazione per il lavoro per le persone in condizioni di disabilità. È molto importante perché ci sono dei miglioramenti complessivi rispetto agli incentivi per chi deve assumere. Si potrebbe pensare che almeno le aziende pubbliche rispettino in pieno la legge, ma non è così. Anche il pubblico presenta delle resistenze e delle inadempienze. Questo è un tema certamente delicato perché non si può soltanto rivolgersi alle aziende private che per legge devono fare questi compiti, ma anche il pubblico che è poi gestore di questi servizi, no? Dovrebbe fare la sua parte. Non facciamo troppe differenze, se c'è qualche problema con le persone con disabilità c'è anche con le persone senza disabilità. Il problema è, come spesso accade, culturale. A frenare spesso è l'idea che lavorare con chi ha qualche disabilità possa rallentare la produzione, ad esempio, o creare problemi. Ma che cosa c'è di vero? Sono molte esperienze positive. Abbiamo in piedi sia lavoro, sia esperienze di lavoro accompagnato, mettiamolo così, sia borse di lavoro, ad esempio. Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Turismo accessibile, cosa è stato fatto, cosa resta da fare, se ne è discusso stamani a Udine. In occasione della giornata internazionale delle persone con disabilità a Casa Cavazzini a Udine, a cura di Promoturismo FVG, sono stati presentati i risultati dei progetti che puntano alla valorizzazione del turismo accessibile, percorsi senza barriere per destinazioni sempre più inclusive, partendo dal mare, passando per Udine e le mappature di Sauris e dei percorsi FVG in movimento. Amare il mare analizza come migliorare l'accessibilità delle risorse turistiche della zona costiera con un focus sul turismo balneare. Ha interessato e coinvolto con l'acquisto di attrezzature e ausili per disabili 8 comuni della costa e ha permesso di mappare quasi 650 strutture. Il progetto Udine Accessibile ha documentato il livello di accessibilità di circa 400 siti del centro storico. I sopralluoghi hanno registrato gli aspetti che possono agevolare o ostacolarne la fruizione. Sauris, dopo il riconoscimento del Best Tourism Villages, uno dei più prestigiosi riconoscimenti internazionali nell'ambito del turismo rurale sostenibile, ha avviato un progetto di mappatura ad ampio spettro dell'offerta turistica del comune. Il primo svolto in area montana, andando a documentare non solo l'accessibilità di strutture ricettive e ristorative, ma anche dei luoghi di cultura e delle attività produttive. C'è poi il progetto 10.000 passi per la salute, con 82 percorsi dal mare ai monti, dove sono evidenziati gli aspetti presenti nel tragitto che possono risultare di ostacolo o di aiuto alle persone con disabilità. Sono stati realizzati anche 9 video promozionali e potenziato il sito web Friuli Venezia Giulia per tutti. Udine, Armando Mucchino, TGR Friuli Venezia Giulia. E ora uno sguardo al tempo, cielo da nuvoloso ha coperto sulla regione, queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 9 gradi, a Gorizia e Udine 8 gradi e mezzo, a Pordenone 6 gradi e mezzo, a Forni di Sopra e Tolmezzo 4 gradi, a Piancavallo 3, a Sappada 1 grado e mezzo, a Tarvisio 0 gradi, sul Monte Zoncolano e sul Monte Lussari 1 grado, a Lignano 7 gradi, a Grado 9 gradi. Ora le previsioni a cura dell'ARPA: questo pomeriggio cielo in genere nuvoloso, in montagna possibile qualche debole precipitazione con quota neve sui 1500 metri, in serata in calo fino a 1000-1200 circa. Sulla costa e sulle zone orientali bora moderata, in serata anche sostenuta a Trieste. Domani nella notte possibili deboli precipitazioni sparse sulla zona montana, nevose a 1000-1200 metri, in giornata cielo in genere variabile. Saranno possibili nubi basse o nebbie sul Tarvisiano, soffierà bora da moderata sostenuta sulla costa e sulle zone orientali. L'Italia del Sì, l'evento itinerante sui progetti infrastrutturali per il futuro del paese, farà tappa domani alle 11 alla stazione marittima di Trieste. Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, illustrerà le opere strategiche e i cantieri aperti nel paese e i progetti per il Friuli Venezia Giulia. Oltre 100 ricercatori europei impegnati negli studi sul prototipo europeo di reattore nucleare a fusione hanno appena partecipato a Udine al meeting del consorzio Eurofusion, nato dalla collaborazione tra i dipartimenti di ingegneria e architettura delle università di Udine e Trieste. In particolare sono stati presentati dall'Ateneo Friulano significativi contributi sull'ottimizzazione e lo studio di fabbricazione di componenti del divertore. Si tratta di un elemento posto all'interno della camera di reazione deputato allo smaltimento del calore e bersaglio delle linee di campo magnetico che confinano con il plasma. L'incontro si è concluso con una visita ai laboratori dell'Uniud Lab Village, il polo di ricerca avanzata dell'Ateneo, dove si svolge ricerca di alto livello in vari settori dell'ingegneria. Sottolineato anche l'ulteriore passo avanti della collaborazione tra le università di Udine e di Trieste sul tema dello sviluppo delle nuove tecnologie di lavorazione dopo la fondazione nel 2016 del laboratorio di meccatronica avanzata LAMA FVG, progetto in collaborazione tra gli Atenei regionali. E parliamo delle bollette dell'energia elettrica. Rafforzare la collaborazione tra la società che eroga il servizio e le associazioni che tutelano i consumatori per risolvere i problemi in modo più diretto e immediato. È questo l'obiettivo del protocollo siglato oggi a Trieste tra East Energy e Federconsumatori. ADOC, Unione Nazionale Consumatori, e Adiconsum, rappresentata da Anna Buchhofer, che sentiamo in questa intervista. Avendo questo canale dedicato possiamo interfacciarsi direttamente con la società, in questo caso l'East Energy, per poter risolvere alle volte veramente con poche battute o con un semplice reclamo, una mail o un qualcosa che potrebbe essere dei problemi complicati che, seguendo la prassi normale, reclami, attesa di risposta eccetera, invece in poco si potrebbero senz'altro risolvere. Quali sono le problematiche sollevate dai consumatori? Le bollette sono talmente tante cose indicate che le persone non sono in grado di comprenderle. E dopo, ovviamente, questo è accaduto, sono i contatori che alle volte che non funzionano, le bollette molto alte, pertanto necessità di chiedere delle rateizzazioni che magari non pensano, bisogna chiedere naturalmente prima della scadenza della fattura. Poi contratti fasulli, e questi ovviamente non c'entrano con la società che parliamo oggi, ma in genere di quelle che in Italia ne abbiamo 600 di compagnie, e ovviamente tutti quanti fanno contratti e ovviamente viene fuori il caos completo e le persone si ritrovano improvvisamente con il cambio del fornitore senza sapere e senza aver firmato o aderito a un contratto, e questo forse è la piaga in questo momento più forte. Eva Ciuc, TGR Friuli Venezia Giulia. Confagricoltura Friuli Venezia Giulia e Agri Soluzioni SRL fanno il punto della situazione produttiva e di mercato dei pioppeti con un incontro su pioppi in Italia e regione, futuro e valore, alle 15 nel Centro Ricerche Fantoni di Osopo. Fra i relatori Marco Cucchini, presidente della Federazione Pioppicoltori FVG, che ci ha spiegato come una caratteristica fondamentale dei pioppi del Friuli Venezia Giulia sia la certificazione secondo gli standard della gestione forestale delle piantagioni, GSP. I pioppi del Friuli sono certificati PFC, ovvero questo significa avere un riguardo nell'uso di pesticidi e insetticidi, ma generalmente su quello che è tutte le pratiche di coltivazione ecosostenibili. E questo cosa comporta? Questo comporta una riduzione appunto dei concimi, dei insetticidi che noi usiamo, e quindi una miglior salvaguardia del territorio. Qual è la situazione attuale della pioppicoltura in regione e le prospettive future? Nel 2014 c'è stato un accordo firmato a Venezia e dai 5 assessori delle regioni dell'Alta Italia, quindi Piemonte, Lombardia, Emilia, Veneto e Friuli, per il rilancio della piopicoltura. Le regioni hanno recepito questo accordo, per cui è stato previsto che il contributo che viene dato nel PSR, quindi con i fondi dell'Europa, i pioppetti dovevano essere certificati e il contributo era dell'80%. Questo ha permesso un ulteriore sviluppo della pioppicoltura. In 10 anni la pioppicoltura in Friuli, da una superficie di 1.000 ettari, è passata ai 5.000 attuali. E adesso questi contributi ci sono ancora? Ci sono ancora, che sono previsti anche nel nuovo PSR in vigore dall'anno scorso per 5 anni, e quindi il trend in questi anni si è stato di una trentina di nuovi associati e penso che continui su questa linea. È in programma oggi alle 17 l'incontro annuale dedicato agli operatori del comparto agricoltura, salute e sicurezza in agricoltura dell'azienda sanitaria Friuli Occidentale. Verranno presentate le attività di prevenzione e controllo svolte quest'anno dal servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro. Particolare attenzione rivolta alla sorveglianza sanitaria, ovvero alle periodiche visite mediche a cui possono essere sottoposti i lavoratori esposti a rischio. Nell'auditorium Centro Catalogazione Magredi del Parco Brolo a San Quirino. Saranno presentati oggi i dati sulle attività di promozione effettuate sul territorio della magnifica comunità di montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio, in collaborazione con TEF, la società in-house della Camera di Commercio di Pordenone Udine, nell'ambito del progetto Magnifica Montagna. Promoturismo FVG e il Centro Studi Camera di Commercio Pordenone Udine presenteranno a loro volta le integrazioni con le risultanze dei questionari distribuiti da TEF, offrendo una panoramica ancora più analitica dell'andamento turistico nei 13 comuni interessati. A Palazzo Montereale Mantica, a Pordenone, alle 17. Alcuni appuntamenti: a 100 anni dalla nascita del poeta e saggista Giovanni Giudici, l'Università di Udine, in collaborazione con il Comune e con la Biblioteca Ioppi, organizza un convegno di studi che si terrà a Palazzo Florio oggi e giovedì a Palazzo Antonini. Un convegno che si terrà domani a Palazzo Florio e giovedì a Palazzo Antonini. Oggi invece alle 18 sarà inaugurata l'esposizione La vita in carte nel salone d'ingresso di Palazzo Bartolini della Biblioteca Civica. Continua il visionario di Udine il ciclo film ad alta quota. Alle 20 la proiezione di Transcardus, film dedicato alla prima traversata sci-alpinistica del massiccio balcanico dello Scardus. Ospiti in sala la regista Elisa Bessega e lo sci-alpinista e guida alpina Enrico Mosetti. All'antico caffè San Marco di Trieste la storia di We Are All Africa, nata da un'esperienza di volontariato in un orfanotrofio in Kenya nel 2009 e diventata un'associazione che negli anni ha sostenuto progetti e missioni a sostegno di orfanotrofi e ospedali. Alle 19. Elettrosmog e impatto sulla salute è il titolo della serata informativa che si terrà alle 20:15 nel Centro Culturale Aldo Moro di Cordenons. Ad organizzare la conferenza un gruppo di cittadini sensibili al tema, alla loro prima iniziativa pubblica. Open Day dell'Isis Nautico Tommaso di Savoia, Duca di Genova, Galvani. Oggi alle 17 a Trieste la presentazione dell'Istituto Tecnico in Piazza Ortis. Dopodomani, giovedì 5 dicembre, quella dell'Istituto Professionale in Via delle Campanelle. Nelle giornate del 10 e 18 dicembre sono previsti anche dei laboratori. Ed è tutto per questa edizione del Giornale Radio Regionale. In regia Marco Ferri e Carlo Morello, in segreteria ha collaborato Daniela Sossi, Dalla Razzani e Rita Micoli. Grazie per l'ascolto e l'augurio di una buona continuazione di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Friuli Venezia Giulia.